il mio nome è Michelangelo, e da anche il gotico, che facevo il tiro, fanno schifo. Quindi, non so, inizio subito con una d'amore. Ti voglio un gomito di bene, ti voglio un variegato. Ti voglio un variegato bauto caldo, filamentoso, verde striato, appiccicoso, vomito di bene, caldo caldo, denso denso, colloso colloso, ti sto vomitando addosso, tutto il mio vomito di bene, baby, oh yeah, baby, baby. Non vedo l'ora che cade il sole e monti la luna, per poterti incontrare nel buio petto, nella mia stanza verde marcio ispiratrice. E il tuo ibrido volto deturpato mi guarda con ribrezzo, e io vomito calde parole pudri e viscere amore per te, baby. Mettili con le chiappe al vento, baby, che adesso portiamo come muri di lombrici. Ti voglio un vomito di pene, e pene ti vomita addosso, mentre tu mi sputi grossi agglomerati verdi e gialli di saliva puzzolente. Ti voglio un vomito di pene, baby. Grazie, prendo questa strada dell'amore, in conferenza tanto l'amore, mi vengo un'altra cosa dell'amore. Ma sei nuovo, sono molto contento. La protesi. È un boicato. Questa si chiama In quanti modi posso dire love? Love, my love, oh my love, stato mando transsexual beats defecation, it's fucking, it's inspired double penetration, pornography sperm, hit a hot dog style, excess sex bizarre, donkey donk fist, prick sperm e gumbi latte, scato, spedish keller, book macho, animal rabbit, double tits, fuck, rasate, dipora, un double game, orgy, bondage, starcio, homosexual, hater, big tits, grip side, qualche domination, pussy, one sex, punch, masturbation, dilation, leaking, cox, organ, punking, transsex, anal power, glitter, express, animal tricks, we defeat, shit eating, creme double, shiman surprise, e qui c'è la sorpresa di shiman, kissing mistress, kick boob, and chicken with dick, and kissing fucking, fucking with brother, some intruder, wet finger, blowing style, hot of soul. Bene, per quanto tempo posso restare? No, no, no, no, no, questo è così, non è una poesia, è un mio sogno, l'ho scritto, ve lo dico. Il mio sogno è diventare restauratore delle belle arti, restaurare il Colosseo, metterci dentro le leoni e farci arrivare a tutti i grandissimi coglioni di Papa Boy, che vengono a vedere il polacco che sa di restare muovendo la mano. E ti dice pensate alle proporzioni bibliche. C'avevo una, scusate, che parlava di me, di una parte di me. Le morti, una parte di me. Potrei parlarvi per mezz'ora del mio cazzo, di come è grosso e duro, sembra un fiuto, di come è grande di circonferenza, è molto largo, di come per quale l'utero sta tuffo, di come schizza forte e lontano, e per agitarlo non basta una mano, e che uso per suonare il piano, e come cloccia la mano. Potrei parlarvi per mezz'ora del mio pene, e dirvi come funziona bene quando deploro di mene. Potrei parlarvi per mezz'ora del mio cazzo, ma pensandoci bene, a voi del mio cazzo, non me ne frega un... Fate parlare. Il venerdì 17 novembre, oltre a Vito Elbo, venì anche un altro grande poeta, un poeta grandissimo, un grandissimo poeta, che per la vita lui la donò tutta quanta al cinema. Ora cercherò di rievocare. Che grande però, eccoci Ciao! Eccoci Ciao! Sì, sì. sono morto io, ma non mi sono contento. Ma sono morto io, ma esatto. Sono morto perché purtroppo ero superstizioso. Quindi sono capitato in un venerdì 17 novembre. I morti non si interrompono. La morte è l'unico evento che non si può interrompere. Ma le nostre provvidenze possono anche ciò. Dicevo, sono morto perché sono capitato in un orbito venerdì 17 novembre. E sono stato colpito dalla sfortuna e sono deceduto, per cui leggerò un poema sulla sfortuna. Sfiga. Se me casca il cazzo me rimbalza in culo. Il nostro medium ha dei rigurgiti anomali. Allora, ci sono state altre situazioni poi che mi hanno portato a, come dire, a venerare la morte, no? E a gioire della morte, che è un momento anche intenso, anche bello, e quindi a, come dire, insomma, partecipare alla morte con tutta la serie di piatti e di momenti culinari che si adattano a questo evento. Infatti ho scritto un libro di ricette, e tra i quali quella che è stata più gettonata è questa, che secondo me si adatta così a questi momenti. Budino di cervella di maiale. Grammi 400 di cervella di maiale, lavate in acqua fredda e fatela spellare. Il mezzetto di burro andrà poi rosolata, finché la superficie sarà tutta dorata. Passata dal setaccio, due tuorli hai da frullare. Noce moscata un pugno, poi devi grattugiare. La forma da budino avete ora imburrato? Presto! Cospargetela di pane grattugiato. Versatevi il composto, unite le cervella, farete impallidire pure la sorella. A bagnomaria un'ora, cuocete adesso il tutto. Sfornate e poi servite con piselli al prosciutto. Però bisogna dire che non sempre i momenti mortuari non è assoluto. I momenti mortuari sono felici, sono piacevoli, possono essere venerati, perché può capitare di morire sotto le grinfie di creature estremamente orride, piene di dentacci, di zanne, insomma, creature mostruose che noi neanche immaginiamo ci possano attendere dietro l'angolo della strada. Eppure tutto ciò esiste soprattutto sugli schermi, ed è per onorare queste creature e sperare che vengano a capirci il prima possibile che vi leggo questo poema, che è intitolato di fatti Godzilla contro i tre moschettieri. L'assalto delle bubone omicide, l'attacco dei granchi giganti, l'attacco della donna alta 50 piedi, Babbo Natale conquista i marziani, le barbare infomani, la bestia della notte gialla, i pagliacci assassini dello spazio profondo, le creature dal cervello atomico, le diavolesse su ruote, la donna pantera del Congo, la donna vespa, le donne del pianeta preistorico, le donne gatto della luna, le donne gatto selvaggio, le donne selvagge di Congo, le donne vichinghe e il serpente marino, il dottore pazzo dell'isola di sangue, il fantasma del bikini invisibile, la figlia dell'infernale pipistrello, il fritz succhia sangue, i trifidi, le giovani cannibali in topless, gli Avenger sanguinari, le incredibili strane creature che smisero di vivere e divennero mezzi zombie, l'infernale ragazza di Marte, l'invasione dei ragni giganti, Jesse James contro la figlia di Frankenstein, le lesbiche vampire, licantropi su ruote, il licantropo nel dormitorio femminile, la lupa di Londra, la maledizione della creatura della palude, i maniaci generatori dell'inferno dei dinosauri, il mangiatore di donne, i mangiatori di feccia, l'amantide omicida, i mostri rovinano il pigiama party, il mostro da un milione di occhi, il mostro della classe 27,

arrivare alla fine della riga, no? Poeta maledetto! Maledetto poeta! Poeta maledetto! Maledetto poeta! No! Voi pensate che non è calcolato, questo è calcolato, però. È calcolato! Scritto, bisogna arrivare! Mi sa che ne basta, Medio, calcolato! Cerchiamo di rievocare ancora un altro spirito un po' più femminile. Adesso cerchiamo di rievocare lo spirito di una poetessa trasversale, un po' di traverso e un po' di qua. Adesso non ce la fa, ma io riuscirò a farlo uscire fuori. Ce la metterò tutta. Dai, esci spiritella, dai. A parte il fatto che io pensavo che quelli di giustizia fossero in qualche modo tornati alla vita, non sapevo che ci fosse un medium che vi evocava e quindi ho scritto una cosa come se fossero tornati. Beh, i miei occhi, promettendo. Subito dopo il loro ritorno alla vita, alcuni dei poeti disgustati. Nuda! Non sarebbe una gran cosa, io me lo sconsiglio. Allora, pensavo che gli sarebbe forse tornato utile dare uno sguardo all'umanità, immaginavano profondamente cambiata. Questi appunti, scritti dopo una lunga e attenta osservazione, e intitolati appunto il prefisso dell'umanità, furono rinvenuti solo pochi anni fa, e precisamente nel febbraio 1997, da uno scarafaggio albino della provincia di Minneapolis, che ne attestò l'originalità e la valenza storico-culturale. E la valenza storico-culturale, io non vedo praticamente. A tutt'oggi non ci è stato comunque possibile rilevare con esattezza se il testo, oltre ad essere il prodotto di un oculato studio del soggetto, fosse anche stato creato dai nostri paladini come un esercizio di stile. E comunque, il prefisso dell'umanità. Se leggessi sarebbe una cosa fantastica, ma non vedo, allora comunque, ci sono destrutturata, destabilizzata, depressa, delusa, despota, derelitta, debole, demente, desta, decongestionata, decontaminata, demoralizzata, denunciata, deturpata, destinata, dentellata, decollata, decorticata, deforme, defilata, demolita, demotivata, decolorata, decente, decennale, derivata, declassata, deceduta, deragliata, decrepita, defunta, desunta, demoniaca, desalinizzata, defraudata, decotta, demodè, deportata, defilata, dedita, deliziosa, decorativa, decotta, derubata, decorata, no, è devolta, invece, ed anche un po' decomposta, decantata, detratta, derita, decisa, devoluta, deferita, deserta, deglutita, degustata, defecata, dettagliata, deodorata, depravata, delirante, debordante, deambulante, declinata, deprimente, definita, descritta, democratica, demografica, decrescente, decimata, decerebrata, degenerata, debosciata, e depistata, desolata, deficiente, ancora hai anche 600 no, hai due haiku nuovi, i due haiku nuovi, uno di quelli vecchi. Non si fa con le nostre, non lo so. Ma calda! No, no, ti prego, a richiesta è stata calda. Sì, grande idea, dacci. Ok, è stata calda. L'essere entrata, una gran voglia. Vabbè, è meglio questa veloce all'altra prima. E un altro haiku sempre vecchio. Voglia il Dio che nell'anno venturo fottersi possa. Brava! Che novembre! Questa era la più grande scuola. Ti leggo due nuovi. Novembre, c'è qualcos'altro di me oltre il muro, Bruce, che ti interessa? E l'ultimo? Sarà importante? Ai fini dell'universo, quel cazzo d'uscio. Mi sento molto più leggero. Ora sentiremo a quello che fai. Devi evocare. Rivocare quello, eh? Eh? Un altro poeta. Figlio del dadaismo. Poeta Marzio. Giova così a tema, anche se non sapevo della grata. Le donne morte. Ah, oh, era ora. Dedicata a tutte le presenti. Le foto. Dedicata a tutte le presenti vive. Le donne morte. Sono fresche d'estate, sono rilassate, sono flemmatiche, sono nichiliste. Acconsentono sempre, puoi averne tante tutte insieme, non entrano mai in competizione tra di loro. Non fanno la pipì, non fanno la pupù, non vanno su internet, non sparlano. Non vanno alle mostre, non sono sciampiste, non sono vetriniste, non le rimorchi a via del corso, non si bucano, non urlano di dolore, non fanno finta di godere. Non ti criticano il vestire, non ti costringono a cercare lavoro, non prendono la pillola, non vogliono il preservativo, non rimarranno mai incinte, non ti piantano le unghie nella schiena. Quando le baci non aprono mai gli occhi, non vogliono fiori, non vogliono cioccolatini, ne puoi cambiare una settimana, ne dovresti cambiare una settimana. Sono indifferenti alla coprofilia, se gli urini addosso durano di più, se ti piace la pesca saranno di grande aiuto, non perdono mai capelli, anzi... Ci stanno con tutti, non sono modaiole, non guardano Beautiful, non gli piace il mare, amano la montagna, hanno la vulva acquosa e larga. Puoi scopargli la bocca e sentire il doppio buco e hanno i muscoli dell'ano rilassatissimi. Bravo, bravo. Ora una più leggera, apri il tuo cuore. Apri il tuo cuore all'orsetto lavatore, ad un camion di... Apri il tuo cuore all'orsetto lavatore, ad un camion di leore, all'assetto posteriore. Apri il tuo cuore al giudizio cautelare, allo sghembo spremitore, alla disc da formattare. Apri il tuo cuore, smetti di urinare, comincia a defecare e per nel buio incatenare. Apri il tuo cuore all'arte di ammazzare a un bel gruppo di zore e alla figlia del dottore. Apri il tuo cuore invece di chiavare, apri il tuo cuore alla cura canalare. Distilla un liquore con le dita delle suore, apri il tuo cuore e riempilo di sperma. Bravo. Dopo questo momento, nell'evocazione mi sento molto più ricco, pieno d'esperienza. Tenterò di rievocare un poeta unico al mondo, un poeta che ha lasciato veramente un grande vuoto, nato a Lucy, un poeta casuale. E adesso mi ci vorrà molta concentrazione per rievocarlo. Mi piace all'altro. Ci arrivare. non me l'aspettavo, ancora non sono preparato le cose. Adesso le cerchiamo insieme. È casuale, no? Chi è? Ah, adesso, no, questa è una poesia di Natale, però la dico adesso. Cioè non è mia, è di Natale. Pronto, pronto, prova, prova. Allora. Prova a andartene. Prova a fruttare. Ride pure di me. No, era un attimo. Allora. Ah, eh no, questa era l'entrata dentro. L'entrata nella realtà. Dunque. La notte di Natale, si intitola Natale con Internet. La notte di Natale accendo il mio computer, mi collego su Internet e faccio sesso virtuale. La notte di Natale mi collego su Internet, faccio sesso virtuale e accendo il mio computer. La notte di Natale faccio sesso virtuale, accendo il mio computer e mi collego su Internet. La notte di Natale accendo il sesso virtuale, mi collego sul computer e faccio Internet. La notte sesso virtuale accendo l'internet, mi collego sul Natale e faccio il mio computer. La notte di internet accendo il Natale, mi collego sul sesso virtuale e faccio il mio computer. La notte del computer accendo il sesso Natale, mi collego sul virtuale e faccio il mio internet. La notte del sesso faccio il Natale virtuale, mi collego sul computer e accendo internet. Del faccio virtuale Natale sul computer internet accendo sesso, la notte collego di... Grazie. Allora, questa è una poesia un po' beat. Si intitola Nie. Il sole non c'è nel tuo buio e fredda estrinsecazione dei tuoi ardenti desideri, ardui per così dire, bastardi, mostarda, e il tuo io è sommerso da torbida broda brulicante, puzzolente e dinosauro, uova putrefatte in te o per te, cioè me. In alcuni tratti posso respirare bene, ma è solo apparenza. In realtà il mio naso e i miei polmoni sono cinte di pelle e di borchie, degli skinhead fascisti, di un nazismo comunista senza retorica. E non dovrebbe esserci più aria ma maionese o sperma televisivo, oppure se vogliamo merda condita con cipolle o macedonia di frutta. Ho sempre voluto attingere nella tua vagina come in un vassoio di insalata russa, un po' morente nella tua mente il mio serpente di velluto a coste. La Pentecoste. Ma quanto costa? 700.000 lire, signore. No! Se lo prenda, melodia. La melodia solenne che intona su tutto il cimitero. Il suono del silenzio, che fine farò io? Che inizio farei tu? Ma lo spirito evapora, mettiamolo in un'ampolla. Lei è la polla, la polla, la polla, la porca, la polca. La polla fa l'uovo sacrificale. E vabbè, quindi fate un po'. Scusate, vabbè. Ah, che cazzo. Meglio, per fare il pubblico. E non hai pietà tu di me, né io di te, né i su di te, né bene né male. Se ti fermi muovendoti lo saprai e riconoscerai che in fondo quello che fai è giusto, che gusto, sangue visto con il pesto, la posta è in arrivo, ma senza sensi è imbottibile. Rischia di non trovare Nettuno pieno e vuoto. È come il Tao, è come il mio saluto. Tao. Non mi è venuto tanto bene, perché mi hanno fatto incazzare questi. Portarci otto. Non ne dico un'altra. No. Anzi, ne dico una... lunghissima. Allora, è andata. E tu? Allora, questa si intitola Rombo. Rombi di rombo rimbombano rimbombi di rombo rombolano addobbando i babà. Barboni, buondì! Rombolando rimbalzano i bomboloni buddisti alla crema. Baristi di babà balbettano i buboni. Bulbi di bolle bollenti e pulicanti balzano ballando. Bon bon bon bon. Bambini bambacioni. Bomboni e bomboloni. Bombe e ciambelloni. Banane e otarie. Giappon Giappon. Vorrei sentare adesso, la sento già la presenza, la sento già qui vicino a me, la presenza di un poeta molto importante all'interno di questo movimento. I poeti discussisti morti, ricordo, il 17 venerdì novembre, questo poeta si chiama Andrea Evangelisti e si sente già di là dall'oltretomba un rocco mostruoso. Ciao a tutti, si sente? Purtroppo. Salutiamo la grande sorella che è... Sono Don Andrea. Vi leggo una poesia sul Natale. Manca un mese. Manca un mese. E questa poesia l'ho scritta in un momento di rabbia, il giorno di Natale. Il titolo è 25 dicembre. Oggi è Natale, è nato Gesù, ma io a ste stronzate non ci credo più. Mi sono stancato di sta stupida usanza di fare i regali a bottasse la panza. Ormai mi deprime sozzo Natale, se solo c'è mezzo mi sento male. Mi tocca magna coi bastardi parenti che prenderei tutti a calci nei denti. Io meno li vedo e meglio mi sento, morissero tutti sarei più contento. Invece ogni anno ste facce da cazzo, mi nonno che ride, io che mi incazzo. Mi sa che urla contro mi nonna, qui faccio una strage, porca madonna. Il prossimo anno se mi invito a una scena, te giuro su Dio che cambia la scena. Sceglierò per regalo una bella pistola, per stendere tre con una botta sola. Mi nonna la sfogo, mi nonno l'impicco, mi zia la sbatto contro il soffitto. All'altro mi nonno che sta sul girello, gli picco nel culo il cosciotto d'agnello. E per finire dopo il cenone, mi suicido col panettone. Così l'altro anno lo vedrai sul giornale. Come ho festeggiato Santo Natale. Grazie. Siete fantastici. Una poesia nuova perché sono le cose sempre le stesse. Vorrei incontrarti fra 100 anni, titolo. Vorrei incontrarti fra 100 anni, tanto mi stai sul cazzo. Grazie. Dedicata a una persona. Questa qui invece è dedicata a un personaggio pubblico che ho scritto 10 anni fa in un momento di rabbia e che ancora purtroppo è valida, però. Si intitola Che cambia fa? Che cambia fa? Non l'ho ancora capito. Non sei più una leggenda e nemmeno un mito. Sei solo un bastardo vestito di bianco che qualcuno un po' orbo ha scambiato per santo. Alla povera gente tu ti rivolgi con le tue encicliche piene d'imbrogli, racconti stronzate e poi parli di fede a qualche coglione che ancora ci crede. Circondato da vescovi, cardinali e baroni, mi sembri Alibaba coi 40 ladroni. Non a caso i tuoi antenati che iniziarono l'inganno si chiamavano tutti Pio e Magno. Tu invece, polacco, dal Vaticano, parli alle folle col microfono in mano, ma saresti più utile, ne ho la certezza, se andassi agli incroci a lavare parafrezza. Invece continui a sparare ste cazzate sul matrimonio, i figli, le scopate, e condanni la pillola, il profilattico, il sesso. Ma io non ci casco, mica so fesso, io me lo metto il preservativo ed è grazie a lui se ancora so vivo, e non grazie a te, che per essere coerente lo prendi al culo e non usi niente. Certo predichi bene durante le messe, ma io sono sicuro che c'è l'AIDS, e non dire che sono state le trasfusioni, ti piace troppo annacco i procioni, lo sanno tutti che c'è un orifizio che è peggio del pozzo di San Patrizio. Sei un gran buffone vestito a festa. Potessi cascare e spaccarti la testa. E ci hanno pure provato a farte fuori. Ma tu sei de coscio, col cazzo che mori. Grazie, sei meraviglioso. Selezione! A Silvio. Silvio, rimembri ancora che dannaffanculo è giunta l'ora? Te lo voglio dire perché t'ho troppo incazzato. Mortacci tu e di chi t'ha votato. Era breve. Questa la leggo solo per il creatore qua sotto. Vabbè, ce l'avrei pure, vabbè, questa qui è molto triste, si chiama depressione. Oggi anche il cioccolato è amaro nella mia bocca, forse è cioccolato amaro. Non fai tu. Ciao. Ora tenteremo di rievocare lo spirito del poeta d'amore che all'interno del movimento dava tanta armonia. Ermetico. Sempre lo stesso problema, da morto e da vivo. Microfono troppo alto. Ah, ma c'era il zio. La morte di sonno, non l'aveva visto. No, non ci si vedeva. Però non si regge. Pure te, se regge. Lo so, perché ieri non mi hai portato il giornale. Lo so, perché ieri non mi hai fatto il caffè. Lo so, perché ieri non mi hai baciato. Perché dall'altro ieri sei morta. Aborto spontaneo. Tu hai un corpo nato per l'amore, morto però di parto. Vita. Per un istante ho provato le pene dell'inferno, poi ho guardato nei tuoi occhi e quell'istante è diventato eterno. Visto che siamo in tema di morte, dedicherei una poesia a una grande morta che viene commemorata in altro luogo, ma faremo la nostra piccola parte. A Moana. Grazie. Quel male infame che auguravamo ad Andreotti te sei portata via in uno sbatter d'occhi, ma il tuo ricordo vive nel nostro cuore e nel videoregistratore. E più ti penso e più mi fai venire in mente tutte quelle sere che non ci avevo da far niente e tu fosti mia inconsapevole compagna, coi tuoi capelli biondi, il tuo sorriso e la tua sagacia. Cara Moana, non si può dire che non ti sei fatta i cazzi altrui, ma il tuo partito ci avrebbe fatto uscire dall'anno bui. Se non altro, invece del buco della sanità, ci avremmo avuto un buco sano su cui contare. Invece ora te ne stai là, con John Lennon che te cantano spartito, John Belushi come paggio e John Orse come marito. E noi qui, soli coi filmetti a gridare ogni settimana, meglio un giorno da Moana che cent'anni da Pivetti. Grazie Moana. Ora, prima di due poesie serissime, vorrei leggervi una vecchia filastrocca che quando ero vivo la mia povera mamma mi leggeva tutte le sere prima di andare a dormire. Non ho detto milva, ho detto vulva. Vulva, vulva spiritosa, tu sorridi senza posa. Vulva, vulva perturbabile, tu dimori in uno stabile. Vulva, vulva larga e stretta, sul sellin di bicicletta. Vulva, vulva saltellante, col baston da rabdomante. Vulva, vulva contumace, tu sei sempre più salace. Vulva, vulva di canguro, ti diverti a battimuro. Vulva, vulva lunedì, ti ritrovo sempre lì. Grazie. E grazie mamma. Oh, adesso praticamente c'è il seguito di una vecchia poesia che scrissi tanti anni fa quando ero vivo, che era I cessi pubblici di Manchester, pochi forse se la ricorderanno, Questo è il cesso delle donne in discoteca. Via vai, via vai. Escono dal cesso i maschi in discoteca, ben sbrullati, senza fermarsi, sempre affrettati, fianco a fianco con sguardo vuoto e la vescica in disarmo, scaricando piscio contro il freddo marmo. Poi escono di fretta, lisciandosi le chiome rigogliose, con mani forse ancora un po' urinose. Il melmoso pavimento, marido d'umori, risuona appiccicoso mentre loro si recano fuori. Poi bevono e ribevono, pisciano e ripisciano. Tanto al cesso ci possono andare spesso. Ma solo una volta in tutta la serata la femmina raggiunge la meta sì agognata. C'è sempre fila, la stessa fila al cesso delle donne, tutte lì in attesa come candide madonne. E più la fila giammai può essere corta, vanno in due le donne per reggersi la porta. Alcune temporeggiano nel sostituir tamponi o ansimano puffant per introdursi nel collante. Cerca il riflesso delle natiche la trucida sbirciandosi a tre quarti sulla porta lucida. Più d'una pone a compattezza strisce di carta sulla nuda tazza, mentre di fuori, con sapere antico, si commenta distratta la verga dell'amico. Ma anche quando l'impudico sciacquone alla seduta un lieto fine pone, la fila continua per parecchio, perché tutte si fermano allo specchio. La spazzola, il rossetto, l'occasionale tiro segnalano la bramata fin del giro. Lo sguardo acido di chi attende a chi va via, colmo di invidia, vuoto d'allegria. Lo sguardo acido di chi va a chi rimane in fila, vuol dire che più felice la vita si profila. Via, a sudar, ma nessuna più si reca più di una volta al cesso in discoteca. Grazie. Vorrei determinare una volta per tutte anche la vostra morte con una delle poesie più allegre in assoluto nel mondo, si intitola Aftermath, che vuol dire qualcosa tipo la quiete dopo la tempesta. Comincia. C'era un tempo in cui la confusione rimaneva sovrana nella mente e fra le bottiglie vuote per la casa. Era triste finire, bello restare. Ora dolore e passione, gioia e desiderio sono concetti vuoti, astrattismi inutili come la corsa di un morto. Pochi istanti e tutto è già troppo. Poca gente già sembra folla. Forse nemmeno inserirmi lo stelo di una rosa nel pene potrebbe farmi sentire ancora vivo. Grazie e me ne vado. Ora tenteremo di rievocare uno spirito che non sento presente nell'aria. No, non lo sento, forse c'è presente. Una poetessa che con la sua bellezza ha reso il movimento disgustista un po' più... Con le sue poesie delle troie cercherò di rievocare lei. Ami Cristi, oh, wow. Dove è la vostra ragazza sta? Bambino, non bere il vino, vieni qui. Ah, ti fa male che sei morta. Ami Cristi! Sì, vieni. Le poesie delle droghe, vieni. Ehi! Morta! Dai! Dai! Sono a raccontare le parti che sono andati ieri! Dai! E allora tenterò di rievocare. Ha tirato l'acqua, la sento dentro di me, l'acqua, lo sciacquone, sì, si muove, sta tirando l'acqua, la sento, sta tirando su le brache, eccola, sì, eccola, ah sì, sì, sì. Sì. Brava! La signora ben fatta! È tutti così a te! Lasciala! Mostra! Disponiamo cognome. Disponiamo il nostro cuore, la nostra mente. Ma voi avete capito che deve fare quale è quello prima? Sì, sì, ci siamo riappassionati. Disponiamo il nostro cuore, la nostra mente, preghiamo con vero spirito di fede. Nel nome della Madre e della Figlia e della Spirita Santa. Amen. La Dea della Speranza che ci riempie di gioia e pace nella fede per la potenza della Spirita Santa sia con tutti voi. E con la buona Spirita. Signora, tu che ci ami di un amore più forte della morte, abbi pietà di noi. Cristi, che hai condiviso per amore la nostra vita e ci hai donato la tua, abbi pietà di noi. La Dea Onnipotente avrà misericordia di voi, perdonerà i vostri peccati e vi condurrà alla vita eterna. Amen. Che l'orgia abbia uomini con piedi con patate e donne patate con piedi, uomini con piedi con patate e donne patate con piedi, uomini con piedi con patate e donne patate con piedi, uomini patate con patate e donne patate con le patate, le patate, le patate, le patate e le patate, ma gli uomini con i piedi con le patate che abbiano pietà di voi! Le tutine, il pinocchio, questa la dedico a tutti gli uomini che che non riescono purtroppo a sopravvivere alla morte. E si intitola No, io so. Stasera la bassa plebaglia con intorno in budella vacue parole, sorseggiando birra che gonfia l'addome. Spento! Ho difficoltà nel riuscire ad accendere interesse Quindi, con stercoraceo sforzo, rigurgito ragionevolmente gli guami verdi, ne poso ceneri ripieni di cicche delle più svariate marche, mie e di altri. Nei boccali di birra mezzi vuoti, ora mezzi pieni, mi netto la bocca, controllo che il rossetto sia a posto, mi alzo, saluto e me ne vado a casa, dove sarebbe stato meglio non mi fossi mai allontanata! Questo è l'ultimo, me ne vado. Non connessa. Anzi, non è l'ultima, è la penultima. Non connessa, perché è un abbonamento telefonico. Non connessa, ramo secco, c'ho la faccia da commessa, bella presenza, falsa quanto basta. Senza spirito materno, scrivo sempre sul quaderno, soprattutto quando sono rilassata. Rilassata e non connessa. Dammi la password, altrimenti non entri. Parola d'ordine, annulla che è meglio. Impossibile localizzare il servo. Il servo non ha una voce. Controlla il servo all'indirizzo. Urlo. Ok, annulla che è meglio, è possibile localizzare il servo. Il servo non ha una voce all'indirizzo, controlla il servo all'indirizzo, urlo. Ok, e provaci ancora, Sam, ok, ok, niente ok, annulla. Posso anche fare un minimo di base musicale. Sono sola nel spazio, sola tra le stelle e una supernova, sola, e già sento la mancanza di gravità. Sono sola sulla navicella spaziale quando sento il grugnito di un maiale! Mi volto, lo vedo, non è un maiale, è un cinghiale. È stretto a bordo di soppiatto dalla terra e mi ha rovinato la poesia del titolo Sola. Forse la colpa di quell'incidente fu proprio di questo poeta che ora tenterò di rievocare. Questo poeta dal nome un po' funebre, Rettumo, con le sue poesie impregnate di morte, forse portò male a tutti i poeti che morirono in quel tragico venerdì 17. Ora tenterò di rievocare. Vedo due anime che vanno via. Ah, boia. Nel limbo. Siete bestie e peggio. Ah, era un fiorro. Senti, fermate. Mi dobbiamo far proprio il tipo di guai. Ma posso io?

quella notte morì anche l'anima folle e assurda del movimento disgustista, ovvero il giocoliere Fosolowski. Un'altra vita era un ballerino di tip tap. Si vede. Una poesia per risollevare un po' la serata. E si intitola Fine. Tristezza, angoscia, solitudine, funeri presagi tornano alla mente, incubi notturni si ripercuotono sulla mia psiche ormai indebolita da anni di atroci sofferenze, cieli sempre più nuvolosi opprimono le nostre incertezze, non so se è peggiore la pietra tombale che è dentro di me, oppure gli scheletri che affiorano dal mio angusto passato, stanchezza, desolazione, mi fanno precipitare nel baratro, spegnendo ogni flebile speranza rimasta. Una lunga distesa di croci. Affolla i miei pensieri di morte, mi consumo nell'attesa della fine, riflettendo sulla mia oscura esistenza. Tetri alberi senza foglie si abbattono su cimiteri desolati il cui eterno incombe e poi la vaffa. L'angolo dell'amore. Quanti anni hai? 22, 25, 28? Dammi il culo che te la botti. Ora una poesia che proprio quest'anno mi è proprio sgorgata. Mi dico dedicata all'evento più importante di quest'anno. Voi sapete tutti qual è? Morino. No, non è a Giubileo, è il Grande Fratello. No. E una poesia è, ne servirebbe anche l'aiuto vostro, perché c'è una specie di ritornello e poi capirete al momento giusto. Si intitola A Cristina del Grande Fratello piace il pisello. Tutti parlano di questo programma. A te chi piace? Sergio o Marina? Chi uscirà per prima? Intanto a Cristina gli piace il pisello. Pisello ancora. Uscito Lorenzo il cuoco, come faranno gli altri? E quello sposato, come farà a resistere? Intanto a Cristina gli piace il pisello. Ma come fanno a stare senza TV, radio, orologi? Sarà vero o sarà falso? Sono esibizionisti? Intanto a Cristina piace il pisello. Vedo che seguite tutti. Un altro bel dilemma, Rocco è gay? L'unica cosa certa è che Pietro si scopa Cristina, anche perché a Cristina piace il pisello. Comunque a tutto c'è una soluzione, udite. Andiamo a Cinecittà e quel bell'appartamento facciamolo brillare con la dinamite. Dimenticavo, a Cristina grazie al pisello. La prossima la farò poi compariva con fratello. Un attimo, un ode che ho scritto così, un grazie, ma molto breve, ti do la grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Comunque vada, grazie. Gabriel Omar Battistuta. Conoscersi. Voi siete quelli che strizzate il tubetto del dentifricio fino a quando non esce più nulla. Voi siete quelli che vi soffiate il naso e poi guardate dentro il fazzoletto. Voi siete quelli che andate al mare di lunedì per rimorchiare il parrucchiere. Voi siete quelli che fate le puzze dentro al letto e poi mettete la testa sotto. Voi siete molto simili a me, solo che io sono più bello. Ora tenterò di fare un esperimento. Tenterò di riportare in vita tutti quanti i poeti. Dopo averli riportati in vita, ciascuno di voi leggerà 20 poesie a testa. No! Oh no! Tutti quanti in testa! Dai! C'è 88 poesie! Dai! Quante ore? Sforzo! Vedi, non leggi io! Vieni! Domenico dall'oltretomba. Domenico. Per ultimo, eccolo Ciccio, però. Jingle Bell tutti insieme. No, Jingle Bell è fantastico. Qui c'è gente che è finita. Che senso ha fatto spalle? Mamma mia, grossa. Gli fa 10 a 1 per noi. Moriremo tutti, davvero. Stanno arrivando i migliori. Milioni? Domenico, c'è il buio. Aiuto. Ciao. Un applauso a questi belli. Grazie. Il finale temporaneo, quando lo meritavate. Finito.